Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Benvenuti a Magazine 24. Come sempre l'appuntamento con la stampa periodica italiana e straniera, in questo caso questa mattina straniera. Vorrei partire da quello che è stato il servizio di copertina questa settimana per Newsweek. Perché Newsweek sceglie un argomento assolutamente lontano dalle questioni di cronaca più spicciola, anche di cronaca economica o politica, e parla del calo della creatività negli Stati Uniti. Allora, il calo della creatività, come si apprende da questo lungo articolo, peraltro, di Newsweek, firmato da Paul Bronson e da Ashley Merriman, è proprio una cosa che stanno testando, che stanno misurando sia tra la popolazione adulta, statunitense adulta, sia soprattutto, e questo preoccupa naturalmente molto di più, tra gli studenti. Io non devo confessare di non avere immaginato che ci fossero dei test specifici per misurare la creatività, ma questi esistono, non sono neanche particolarmente di invenzione recente, perché si utilizzano in modo stabile già dagli anni 50, quindi sono una sessantina d'anni abbondante che si accumulano dati sulla potenzialità creativa specialmente degli scolari, degli studenti, e quello che si è notato è, detto in una frase molto secca, che questo potenziale creativo, almeno negli Stati Uniti, sta diminuendo. Vi leggo qualche passaggio qua e là. L'articolo comincia da un'esperienza appunto del 1958, un alunno che allora aveva 8 anni, si chiama Ted Schwarzrock, fu uno di quegli scolari che testarono appunto questo esperimento, questo indice di misura della creatività, insieme ad altri 400 bambini che vivevano a Minneapolis. A questi bambini vennero fatte delle domande per verificare appunto la loro creatività. La domanda che fecero a Schwarzrock era di questo tipo: gli presentarono un'autopompa, una macchinina dei pompieri, e gli chiesero come poteva migliorare, come avrebbe potuto rendere questo giocattolo più divertente. E lui diede addirittura 25 suggerimenti per migliorare il giocattolo, e questo colpì molto gli esaminatori, tanto che appunto prese un punteggio molto alto. In questi 50 anni dai quali Schwarzrock e i suoi altri colleghi, i suoi altri coetanei si sono sottoposti a questi test, sono stati raccolti appunto moltissimi dati, sono stati anche esaminati poi nel futuro se i risultati della creatività di questi bambini, vedendo se c'era una correlazione tra la creatività misurata da bambini alle scuole elementari e quello che poi dimostravano da adulti, e questa correlazione effettivamente c'è, perché si spiega appunto nell'articolo di Newsweek è che molto bene i test di Torrance riescono a prevedere che questi bambini sono effettivamente degli adulti poi creativi in tutti i campi, perché possono diventare imprenditori, inventori, ma anche scrittori, medici, possono diventare dei diplomatici o anche, che so, dei programmatori, degli inventori di software. Quindi non necessariamente una creatività indirizzata in senso artistico, ma diciamo la capacità di trovare delle soluzioni innovative, delle soluzioni che non esistono. Da qui poi l'articolo cerca di spiegare in cosa consiste in modo molto sintetico la creatività. Quello su cui diciamo possiamo convenire in questo poco tempo è che la creatività consistere sostanzialmente in una coesistenza di pensiero divergente e pensiero convergente. Cosa significa divergente? Cioè la capacità di trovare una soluzione inattesa, di utilizzare in un modo inatteso qualcosa, un'informazione, un materiale, quello che volete, e poi convergente, cioè utilizzare però questo pensiero, questa intuizione in un modo utile, in un modo immediatamente spendibile. Ecco, questo sembra essere lo stato primario della creatività. Hanno cercato anche di capire se c'era un qualche legame tra le condizioni appunto di vita dei bambini e la loro creatività mostrata, in realtà se ne è derivato che è più un problema, pare più un problema di educazione. Le famiglie che sono magari molto sono più stabili o che incoraggiano i bambini ad essere responsabili sembrano favorire la creatività. Quello che però preoccupa poi gli autori di Newsweek è che indubbiamente i test di Torrens stanno mostrando una diminuzione della creatività negli studenti e non si spiegano fino in fondo perché. Naturalmente viene messa sotto accusa la troppa esposizione alla televisione, piuttosto che quella ai videogiochi, piuttosto che la precoce esposizione ai computer, insomma la capacità di poter inventare qualcosa, o invece contrapposta alla facilità di trovare le cose pronte, le cose già disponibili naturalmente. Ecco, dall'articolo naturalmente non emergono delle soluzioni se non questo allarme e il dubbio che in altri paesi magari invece questo tasso di creatività stia salendo e che questo possa alla lunga farsi sentire anche nello sviluppo economico, nel benessere complessivo degli Stati Uniti. Visto che parliamo di scolari, si parla spesso di scuola qui a Magazine 24, se qualcuno di voi ci sente con più regolarità si sarà accorto che sui periodici, sui settimanali, non solo italiani, si trovano facilmente delle occasioni per parlare di quanto va bene o più spesso di quanto non va bene la scuola. Allora, abbiamo parlato di creatività che fatica, che cala tra gli studenti americani, non è molto meglio augurante la rubrica di Franca Zambonini su Famiglia Cristiana, che viene intitolata questa settimana "Insegnanti demotivati, alunni indifferenti", una accoppiata devo dire poco così entusiasmante, però deriva da un libro che la Zambonini segnala. Il libro si chiama "Anche i prof hanno un cuore", l'autrice è Anna Antonini, che insegna lettere in una scuola di Palermo. È un catalogo di vita scolastica, elenca oltre 200 voci che descrivono quello che succede tra i banchi, quindi si va da abbaglio fino a zaino, si dice lo zaino può contenere di tutto, dall'album con le figurine dei calciatori al necessario per il trucco, i sacchetti di patatine, si capisce come poi i libri facciano fatica a entrarci. Ci sono alcune voci tipo motorino, che è un premio per il ragazzino promosso, è un regalo consolatorio per quello bocciato, quindi in un modo o nell'altro poi arriva, e questo sembrerebbe far dubitare anche della capacità educativa nostra complessiva. Le notizie però più recenti non sono beneauguranti, perché segnala sempre la Zambonini, i tagli del ministero si stanno abbattendo sul tempo pieno delle elementari e quindi per gli scolari ci sarà il rischio di essere ammessi per estrazione con una sorta di lotteria. Poi ci sono dei licei che hanno chiesto a studenti che si presentavano alla maturità un contributo di 140 euro per pagare i commissari d'esame, naturalmente un prestito che poi verrà restituito quando il ministero pagherà gli arretrati, così ha detto il preside, perché ha spiegato che stanno ancora aspettando il saldo del conto del 2004, quindi arrivati al 2010 hanno giustamente pensato che non potevano esporsi ulteriormente. Però questo è un quadro, diciamo, poco entusiasmante della situazione a scuola italiana, descritto appunto da una insegnante e riferito da Franca Zambonini su Famiglia Cristiana di questa settimana. Vorrei restare sulle questioni familiari in qualche modo, perché c'è una bella intervista su Vita. Vita è il magazine del non profit. Un'intervista a un sociologo che si chiama Mario Morcellini. Mario Morcellini è preside di comunicazione alla Sapienza. Dice Morcellini si occupa della famiglia peer-to-peer. Ora, il peer-to-peer è questa modalità di scambio dei dati, voi sapete, sul computer, che consente tra l'altro di utilizzare appunto file musicali, film e quant'altro, spesso senza pagare. Cosa significa famiglia peer-to-peer, cioè pari a pari in qualche modo? Significa una famiglia dove i ruoli sono un po' confusi, per farla molto breve, perché dice La famiglia e la scuola, spiega Morcellini, hanno esternalizzato in qualche modo l'educazione dei giovani. Chi fa questa educazione dei giovani la fanno di fatto altri strumenti, appunto, tra cui il computer, i social network, la frequentazione appunto dei coetanei al computer. Si chiede ai giovani, dice Morcellini, che valore dai alla famiglia? Nessuno di loro dice che non è importante, ma tra dire questo e ammettere alla famiglia un'influenza sui valori ci passa un mare, e il mare è il peer-to-peer. Ci sono alcune eccezioni, però la tendenza è chiara: in famiglia si parcheggia l'alimentazione, le risorse economiche, un minimo di scambio educato con i genitori, ma la costruzione e l'ordinamento dei valori, l'agenda delle cose da fare, sono assolutamente non negoziati con i valori familiari. La cultura pubblica, poi insiste Morcellini, fa finta di credere che questo sia una congiuntura, sia un caso, questa perdita di credito in qualche modo della famiglia, specialmente nella sua trasmissione dei valori, e dice fa finta di credere che sia una congiuntura, ma non è così. In realtà sono anni che viviamo un processo di smaterializzazione dell'importanza culturale della famiglia. Gli indicatori sono due: primo, l'aumento di affettività in casa, i genitori spesso aumentano le manifestazioni affettive, un'affettività che però poi copre il vuoto di influenza, diremmo noi la capacità educativa in una parola. Le prestazioni economiche, il secondo indicatore indicato da Morcellini: quando non sai come fare, sganci soldi per tenere il contatto e mantenere la dipendenza, quindi si diventa sempre più amici dei propri figli, ma si cessa di essere genitori. E questo è il segnale che lancia Morcellini. Non so poi se quanti di voi lo condivideranno, mi sembrano però delle considerazioni estremamente centrate su quello che pensiamo delle famiglie, della scuola e dell'educazione in questo periodo. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Prima parlavamo di famiglia, abbiamo parlato molto anche di questioni italiane. Vorrei fare un giro un po' all'estero utilizzando diversi dei settimanali, dei periodici che ho qui con me. Una notizia che viene ripresa in realtà da più di un settimanale, io la traggo da Vanity Fair, un lavoro di Stefania Mascetti, ma probabilmente potete averlo visto anche altrove. Dovete sapere che il governo iraniano ha dettato delle norme per essere conformi alla legge islamica per quanto riguarda le pettinature maschili, quindi il barbiere secondo il Corano, come sintetizza il titolo di Stefania Mascetti. Dice: è noto che in Iran le donne devono uscire di casa con il capo coperto per seguire gli insegnamenti del Corano, ora però anche gli uomini iraniani dovranno seguire alcune regole per essere pienamente conformi alla Sharia, la legge islamica. Il Ministero iraniano per la cultura e la guida islamica ha infatti diffuso alcune pettinature maschili raccomandate ai barbieri e ai loro clienti. Sono tagli molto lontani da quelle che vengono definite le decadenti mode occidentali. Colpo di forbice ai codini, via i capelli lunghi sul collo, creste troppo elaborate, via libera invece a ciuffi, frangette in stile anni 80. Molti dei modelli fotografati in questo catalogo di appunto corretta pettinatura maschile sono senza la barba, qualcuno porta un ardito pizzetto che un tempo peraltro era disapprovato dai mullah. Anche l'uso del gel sembra essere consentito, però in modica quantità. Non vogliamo essere arretrati, ha spiegato il direttore della fiera dell'IAB, ha detto: vogliamo solo presentare delle acconciature moderne, ma preservando la nostra cultura, la cultura iraniana. Questa fiera, il direttore di questa fiera dell'IAB appunto dirige questa manifestazione che si è aperta l'11 di luglio, ci sono esposte tutte le pettinature adeguate a un buon iraniano, quindi diciamo conformi. È il nostro modo per combattere l'invasione culturale dell'Occidente, questo è stato il commento dello stesso Khodayar. In qualche modo noi potremmo pensare che effettivamente dietro alla volontà poi di controllare come gli uomini si pettinano può esserci naturalmente la cosa molto fastidiosa dello Stato che mette il naso anche in comportamenti molto privati, ma anche, se vogliamo vederci almeno una cosa positiva, la voglia di tutelare una propria cultura, un proprio sentire magari diverso da quello che viene imposto dai modelli più prevalenti. Però il mondo cammina, ce lo hanno ricordato da ultimo i mondiali di calcio e se lo ricordano anche molti dei settimanali, dei periodici che ci sono in edicola questa settimana, perché più d'uno, come già era successo con i quotidiani, più d'uno ha notato che molte delle squadre che sono andate avanti hanno dei giocatori che magari sono di origine non della nazione per la quale giocano. Il caso che viene presentato ad esempio dal Nouvel Observateur, da Serge Raffi, è quello della Germania. La Germania, dove si parla di generazione M, dove M sta per multiculturale, e dove si passano in rassegna appunto i vari, quelli che noi avremmo definito forse una volta oriundi, che hanno popolato, che hanno guidato poi la Germania, tutto sommato, ha un brillante terzo posto ai mondiali. Si comincia dal ritratto di Mesut Özil, che ricorderete per chi ha visto i mondiali, è quel giocatore che recita appunto i versi del Corano, prega prima della partita per ovviamente la sua salute e per la vittoria della squadra tedesca. A 21 anni, dice Raffi, la star della squadra tedesca sta travolgendo tutti i pregiudizi di tutti i paesi, non solo del suo, a proposito del talento e della nazionalità, perché è un musulmano praticante, non rinnega niente delle sue origini, di origine turca, e fa parte di quella generazione che ha approfittato della riforma delle leggi sulla nazionalità, una riforma che i tedeschi hanno fatto nel 1990 e ha potuto quindi essere schierato come tedesco a tutti gli effetti nella nazionale tedesca. È stato poi uno dei protagonisti, ma insieme a lui Sami Khedira, che è di origine tunisina, Boateng, viene dal Ghana, e poi ancora Marco Marin della Bosnia Erzegovina, e poi naturalmente quella che viene definita la legione polacca, Podolski, Klose e Trokowski, che sono tre, appunto, altri tre giocatori della Germania. Come ha fatto la federazione tedesca a riunire una rappresentativa così colorata, la definisce tra virgolette Raffi, in pochi anni? Dice: la squadra più multiculturale che sia mai esistita in Germania, e su 23 giocatori 11 di loro hanno genitori che non sono di origine tedesca, quindi una generazione M, una generazione multiculturale, come viene presentata da Raffi sul Nouvel Observateur di questa settimana. Restiamo allora in tema di calcio, in tema di mondiali, anche se per noi non sono stati davvero entusiasmanti. Avrete visto probabilmente sul venerdì di questa settimana il servizio dedicato a Gigi Riva. Da questo servizio però volevo trarre un piccolo contributo che ha firmato da Luigi Irdi, il legame tra le borse e il calcio. Cioè, sarà vero che quando una nazionale va male ai mondiali poi anche la borsa di quel paese ne risente? Ebbene, sembra che sia vero. Dice: la nazionale italiana, scrive Irdi, fa malissimo alla borsa. Nei giorni immediatamente successivi all'eliminazione del mondiale, l'indice All Share del listino di Milano ha perso quasi 700 punti, confermando così la teoria di Alex Edmans dell'Università della Pennsylvania, Diego Garcia dell'Università del North Carolina e Ovindi Nørli del Norwegian School of Management. Se la nazionale di calcio perde in una competizione di alto livello, hanno detto questi tre signori, la borsa va a picco. Naturalmente il calo ha raramente a che fare con dei dati economici, è piuttosto legato all'atmosfera di depressione che si crea tra gli operatori. La psicologia della borsa è una scienza molto studiata, riferisce sempre Irdi, ha elaborato teorie che coinvolgono numerosi elementi capaci di influenzare l'umore degli agenti, degli operatori. Dall'ora legale, i cicli lunari, le feste religiose. Nulla però sembra in grado di influenzare così tanto l'umore degli operatori di borsa come il calcio. Sono stati esaminati peraltro da questi tre studiosi anche i possibili effetti del basket, del baseball, dell'hockey e del football americano. Ma l'unico sport che si è visto poter eguagliare spiegare l'influenza del calcio sulle borse, l'influenza appunto sulla, direi meglio, sulla psicologia degli operatori di borsa, è stato il cricket e per quanto riguarda i paesi asiatici, dove come sapete è molto popolare, molto sentito. Scrive appunto Irdi, solo il cricket può forse rivaleggiare con il calcio riguardo alle influenze negative che può avere sul mercato azionario. E allora un'ultimissima citazione, sempre in materia di calcio, la trago da Newsweek. Newsweek in un breve articolo firmato da David Graham dice: attenzione, c'è un legame tra il football e la jihad, cioè il terrorismo islamico. Dice appunto che spesso capita che tra i terroristi islamici si usi giocare a calcio, c'è molta passione per il calcio anche tra di loro, naturalmente sarebbe probabilmente strano il contrario, e però il calcio viene utilizzato appunto per come modo di riunirsi, come modo di tenersi in contatto, e tra l'altro si è visto che tra coloro che avevano partecipato agli attentati di Madrid nel 2004 molti avevano l'abitudine di giocare insieme a pallone, quindi in questo caso il calcio si univa, ma per poi portare avanti un legame che era tutt'altro che pacifico, tutt'altro che sportivo, appunto. E con questa segnalazione noi abbiamo concluso la puntata di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio naturalmente Valeria Bernardi che anche questa mattina mi ha assistito alla regia. Grazie a Margherita Ina e a Luca Rinaldi, mi hanno aiutato a preparare questo programma. Io vi ricordo, se volete risentire Magazine 24 o qualsiasi altro programma di Radio 24, collegatevi al nostro sito www.radio24.it. Grazie a tutti, buona domenica e ci risentiamo sabato prossimo.